Corriere diplomatico. La politica estera e i suoi protagonisti. L'Africa, le sfide che affronta, le tragedie che la travagliano, il nuovo ruolo della Cina nel continente, la sicurezza alimentare, i conflitti nella Repubblica Centrafricana e nel Sud Sudan. Romano Prodi, presidente del gruppo di lavoro ONU Unione Africana per le missioni di peacekeeping e inviato delle Nazioni Unite per il Sahel, ha affrontato questi temi a Roma, all'Accademia dei Lincei. Daniele Morgera lo ha intervistato. Conflitti aperti ed emergenze umanitarie, ma anche potenzialità e dinamismo. Come sta cambiando il ruolo dell'Africa sullo scacchiere geopolitico mondiale? Sta cambiando totalmente, non è cambiato, ma sta cambiando, insisto su questo. Perché c'è chi parla del rinascimento africano. No, non c'è ancora il rinascimento, ma c'è una fantastica nuova fermentazione. Il continente si è svegliato da 8-10 anni, si formano nuove classi sociali, c'è un'elite che pensa a un livello più elevato, però naturalmente è chiaro che rimane tanta povertà. Con un ruolo della Cina più accentuato? La Cina è stata indubbiamente tra i protagonisti di questo risveglio, perché è la prima volta nella storia dell'umanità che un paese esporta insieme beni, lavoratori, tecnologie e capitali. Questo non si era mai visto, e poi che agisce a livello continentale, cioè si assiste con questo veramente a una trasformazione di una strategia politica. L'attenzione della Francia per i paesi francofoni, della Gran Bretagna per quelli anglofoni, ed è totalmente giustificabile, gli Stati Uniti con soprattutto i paesi dell'Africa dell'Ovest, alcuni paesi amici, la Cina lavora in tutto il continente. Questa è una rivoluzione. Il 2014 è stato proclamato anno della sicurezza alimentare in Africa. Presidente Prodi, lei è anche inviato speciale dell'ONU per il Sahel. In questa regione milioni di persone hanno urgente necessità di cibo e preoccupazione desta anche l'attività terroristica legata ad Al-Qaeda. Che risposte può dare la comunità internazionale? Beh, da un lato non avete idea della dimensione del problema e della quantità di aiuti che arrivano. Dall'altro lato questo è nettamente insufficiente e abbiamo ancora decine e decine di migliaia di morti, soprattutto di mortalità infantile per motivi di denutrizione o derivanti dalla denutrizione. E qui il problema, c'è poco da fare. Da un lato è aumentare questi aiuti, ma soprattutto dall'altro è costruire un'economia sana e moderna, ed è questo il motivo per cui il segretario dell'ONU ha pregato di far lavorare in coordinazione i diversi stati, perché isolati, quando arriva una disgrazia, non si ha nessuna possibilità di intervento. Polemiche accompagnano gli EPA, i patti di partenariato economico che l'Unione Europea sta proponendo e che potrebbero svantaggiare gli stati subsahariani, mettendo in discussione l'economia e danneggiando l'agricoltura. È un rischio concreto? Sì, come rischio sì. Bisogna stare molto attenti a fare questi patti. Sono utili perché hanno delle pagine, dei capitoli anche favorevoli ai paesi africani, ma come tutti i cambiamenti radicali causano anche problemi, soprattutto in aree specifiche, coltivazioni specializzate che sono estremamente, estremamente serie. La Repubblica Centrafricana è sconvolta da omicidi e linciaggi. La neopresidente Samba Panza afferma di voler scongiurare una divisione del paese. È ancora possibile, a suo giudizio, una riconciliazione nazionale? La riconciliazione è possibile, ma la condizione è che noi mandiamo per ora più truppe per la pace. Occorre far calare le tensioni, perché se no non si riesce a avere la pace. Nel Sud Sudan la via diplomatica ha subito un brusco stop. I colloqui di pace riprenderanno presto? Mi auguro. Io però devo confessare che non sono mai stato favorevole alla divisione del Sudan. È difficile pensare che si possa avere la pace dividendo un paese. Salvo casi eccezionali, esistono casi di questo genere, ma è molto raro. E nel Sud Sudan io immaginavo, proprio perché le divisioni non andavano fra nord e sud, ma erano all'interno del nord, come sono tuttora. Lei pensa al Darfur, lei pensa ad altre zone, e sono interne al sud. Quindi spaccando il paese, in questi casi, si creano situazioni altrettanto difficili. Tre parole chiave per il futuro dell'Africa? C'è una parola chiave che è lo sviluppo, ma non basta, no? Ci vuole uno sviluppo con un senso di solidarietà e di democrazia. Democrazia è una parola forte, ma di cammino verso la democrazia indispensabile. E terzo è collaborazione fra i paesi africani. Per quanto